Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno, buona domenica, buon ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, quindi Beatrice Montini, Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Giuseppe Coco, Lorenzo Guadagnucci, che sono, anzi siamo, restati animali a partire da domenica 4 marzo 2012. Ottava puntata del viaggio attraverso i modi di pensare, vivere e agire cruelty free, senza causare sofferenza, sfruttamento e morte ai nostri fratelli animali. Tutto l'archivio delle nostre precedenti trasmissioni nel blog restiamoanimali.wordpress.com o nella homepage di controradio.it. Non tutte le galline sono fortunate come Marta, la fidanzata di Lupo Alberto, e nemmeno come Rocky, Gaia e le altre galline in fuga che, nell'omonimo film, scappano con la macchina volante e arrivano nel prato verde dove possono finalmente vivere libere e felici. La realtà di galline e polli destinate alla produzione di carne e uova è assai diversa da così. Tra l'altro, ci avete mai pensato? Pollo è un termine che usiamo per un animale che non esiste. Una gallina, un gallo, quando sono in un allevamento da carne, diventano polli. E che pena chiedere ai bambini di disegnare un pollo. Molti non sanno che aspetto abbia e lo disegnano con quattro zampe, perché nelle vaschette del supermercato le cosce sono appunto quattro. Dedicheremo questa puntata proprio a polli e galline e per la rubrica Animal House abbiamo intervistato un testimone prezioso, un lavoratore che per diverse vicissitudini in un periodo della sua vita si è trovato in un macello di polli. La sua storia non ha solo un valore giornalistico, è anche l'onesta testimonianza civile di chi ha pagato per la sua difficoltà ad adattarsi a un sistema che produceva sofferenza e morte ad altri animali. Giuseppe, visto che il tema di questa trasmissione sarà nuovamente pesantuccio, alleggeriscici con la tua deliziosa playlist. Iniziamo con uno stravagante duetto annunciato la settimana scorsa, ma che poi, per sbadataggine mia, non abbiamo sentito. Sono la tedesca Nina Hagen e l'americana Lene Lovitch, che negli anni Ottanta incisero questo manifesto contro la vivisezione. Oggi daremo spazio a parecchia musica italiana. Inizieremo con Giorgio Gaber che ci dice una cosa triste: la nostra vita è paragonabile a quella dei polli d'allevamento. Entrambi viviamo tristi esistenze. Ci sarà spazio per la melanconica storia del bimbo del macello, mentre la tigre di Cremona, una specie rara italiana in via di estinzione, gorgheggerà di un leone e una gallina. Il 19 aprile è uscito un documentario curato da Martin Scorsese sul vegetariano mistico George Harrison e lo celebriamo anche noi ascoltando una famosissima canzone mantrizzata per celebrare il nostro pasto gentile. E come sapete, nella nostra programmazione non può mancare un tocco di classica e quindi parteciperemo accompagnati dal cigno Yo-Yo Ma al Carnevale degli Animali. Dall'Algida Finlandia invece giungono le note di un compositore e violinista vegetariano, Jan Sibelius, che ci accompagnerà nel nostro momento filosofico. Concluderemo la puntata con un cantante vegano che ha il nome e cognome da cane, ovvero Jarvis Cocker, ex leader dei Pulp, che ormai vive fra Londra e Parigi e saltuariamente ci delizia con qualche produzione musicale, come potrete constatare con le vostre orecchie. Naturalmente potete leggere le diforate sonore legate alla scelta che ho fatto, riascoltare e rivedere la nostra playlist visitando il blog restiamoanimali.wordpress.com. Questa puntata la dedichiamo a Ulisse Aldrovandi, uno scrittore italiano del XVI secolo che era professore di storia naturale all'Università di Bologna e che studiò i polli per decenni, arrivando ad amare questi uccelli. Ha raccontato che nella sua casa di campagna allevò una gallina che, oltre ad aggirarsi sola per casa tutto il giorno evitando la compagnia delle altre galline, la sera non andava a dormire in nessun luogo che non fosse fra i miei libri e quelli più grossi. Tuttavia, quando ne veniva allontanata, voleva sdraiarsi sulla schiena. Aldrovandi ha scritto un libro che ha un titolo fantastico, De Gallinis Patavinis, e fra le cose che ci ha lasciato è una descrizione di un gallo come esempio massimo di padre di famiglia,

e io le rompevo tutte. Perché lo facevi? Qual era, diciamo, la cosa che ti infastidiva di quelle uova? Perché comunque per loro era sempre soltanto lucro, era sempre soltanto soldi, cioè era proprio il voler guadagnare e sfruttare l'animale completamente. E lì veramente quando arrivò uno degli ultimi camion di galline, diciamo degli ultimi periodi in cui ho lavorato, lì veramente la sofferenza è aumentata, perché comunque vedevo appunto che per loro, oltre alla gallina, che l'uovo doveva essere comunque venduto, era un continuo sfruttare l'animale. E questo, diciamo, che è stata, diciamo, una delle gocce che ha fatto traboccare il vaso. Quali conseguenze ha avuto su di te questa esperienza? Soprattutto sulle tue scelte, sul tuo stile di vita, vorrei sapere. Ho veramente chiuso completamente con qualsiasi alimento di origine animale. Ho cominciato a provare fastidio anche per tante altre cose. Come vedevo un pezzo di carne, era praticamente, mi riportava alla sofferenza dell'animale, vedevo proprio l'animale che soffriva, ma lo stesso nell'abbigliamento, in tante altre cose. Ringraziamo Ivan per essersi confidato con noi su questa sua dura esperienza umana e personale, che crediamo possa farci riflettere su come il sistema della delega, l'allontanamento fra il consumo e i sistemi di produzione, offuschino le implicazioni etiche delle nostre scelte e creino una serie di pretestuose giustificazioni alle nostre dannose abitudini. Cari, cari polli di allevamento, con i vostri stivaletti gialli e le vostre canzoni. Cari, cari polli di allevamento, nutriti a colpi di musica e di rivoluzioni. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Galline e polli hanno accompagnato gli esseri umani quasi dall'inizio dell'addomesticamento. Come i maiali, anche galline e polli sono tra i pochi animali domestici che è possibile trovare in tutto il mondo, usati per le uova, per i combattimenti o come orologi di altissima precisione, in quanto cantano all'alba e tre volte durante la notte. Eppure, anche se viviamo insieme a loro da migliaia di anni, sembriamo averli capiti molto poco. Cercheremo di superare i confini del nostro linguaggio e della nostra cultura e di realizzare la meraviglia di un incontro senza pregiudizi, cominciando subito col ricusare il disinformato insulto cervello di gallina. Nuovi studi, infatti, dimostrano che questi animali hanno un'intelligenza complessa fatta di fermezza e di determinazione. Sanno parlare, trasmettono informazioni di tipo diverso, sanno provare affetto, lealtà, orgoglio, piacere. Sono degli ingegnosi costruttori di nidi, hanno una dedizione totale verso i loro pulcini, dimostrano amore materno e abnegazione paterna, hanno addirittura senso dell'umorismo. Sanno anche simulare volontariamente. Per esempio, se una gallina si allontana troppo dal gruppo, per richiamarla simulano la presenza di cibo, denotando così una capacità cognitiva assai complessa. Naturalmente, perché tutto questo si realizzi, è necessario concedere loro uno spazio di libertà espressiva, il rispetto della loro etologia e la nostra partecipazione empatica. È vero che i polli vengono da un altro mondo, ma è un mondo che si trova proprio dietro l'angolo, a un passo dall'indifferenza umana. Se per un istante potessimo rinunciare alla nostra arroganza, riusciremmo a godere del mistero e del fascino di questo altro mondo. Per realizzare questo incontro siamo tornate all'Ippoasi ed Egon ancora una volta ci ha fatto da cicerone. Noi siamo in mezzo a tante galline. Egon, spiegaci un pochino, nel tuo conoscerle più da vicino, che cosa hai scoperto di loro, cosa gli piace fare, come comunicano, se hanno una vita emotiva. Allora, le galline sono animali molto interessanti, che sono molto semplici, che magari specialmente negli anni addietro quasi tutti erano abituati a vedere magari nei pollai dietro casa, e quindi, diciamo, animali molto umili. In realtà sono molto interessanti da osservare, tant'è vero che si pensa che l'etologia in fondo è nata dall'osservazione delle galline, perché, diciamo, il primo etologo cominciò appunto i suoi studi proprio guardando verso i 9 anni le galline di casa e scoprì quello che era l'ordine della beccata, cioè praticamente l'ordine gerarchico degli animali. Quindi sono animali interessantissimi da osservare. Qui per esempio siamo in una giornata di sole e stiamo vedendo un gruppo di galline che fanno dei bandi di sole e di polvere. Praticamente loro adorano, specialmente appunto nelle giornate invernali, dove quindi sentono l'esigenza di scaldarsi,

Ai lati della ruota c'erano due stretti corridoi in cui i maiali entravano al termine del loro viaggio, e in mezzo, fra i due corridoi, sostava un nerboruto operaio nero, con le braccia e il petto nudi. Appena la ruota si muoveva, accadeva che il povero maiale veniva di colpo sollevato e cominciava a dimenarsi e a strepitare per aria. Infatti uno strido agghiacciante colmò in quel momento lo stanzone e squarciò i timpani dei visitatori. Essi sobbalzarono e le donne si ritrassero atterrite. A quello strido ne seguì un altro, ancora più disperato. Era dovuto alla consapevolezza del povero animale che, una volta sollevato in aria, capiva di non poter più tornare indietro. Lassù, giunto al punto in cui la ruota cominciava a farlo scendere, mediante una specie di carrucola veniva smistato in una certa direzione. Si muoveva, sospeso a mezz'aria, per lo stanzone, mentre un altro suo simile, e poi un altro ancora, lo seguivano alla stessa maniera, fin quando non si formava una doppia fila di maiali, appesi per una zampa, che si dimenavano e grugnivano disperati. Il tutto era sistematico, così clinico, così razionale, che i visitatori ne rimanevano affascinati. Era la produzione meccanizzata della carne di maiale, la produzione organizzata su base matematica della carne di maiale. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E mentre la Camilla è vestita da Hare Krishna e distribuisce fiori a destra e a manca, parliamo del nostro pasto primaverile per favorire la depurazione e non ingolfare la digestione, composto da riso speziato con asparagina marinata, fagioli bianchi di Spagna, verdura al vapore con olio e maionese di riso. Cominciamo parlando del riso speziato e asparagina marinata. Ingredienti: una tazza di riso Thai o basmati, spezie varie preferite come noce moscata, chiodi di garofano, cardamomo, timo, curry, origano oppure anche il cumino. No, il cumino no, dai, almeno questa volta il cumino no. Io ho messo spezie preferite. Poi abbiamo bisogno delle asparagine cotte al vapore, olive nere, olio extravergine d'oliva e un cucchiaino di succo di limone. Ma quando dici asparagina, quindi tu intendi l'asparago? Cioè l'asparago e l'asparagino, che è quello un po' selvatico che si trova, che è più piccolino e più saporito. Come volete, potete usare l'asparago normale o l'asparagina. L'asparagonano? L'asparagonano, che fa bene al vegano. Preparazione: mettete in una pentola una tazza di riso e due d'acqua, aggiungere un pizzico di sale grosso e le spezie meglio se tritate, come appunto cardamomo, noce moscata, chiodi di garofano e l'indimenticabile cumino. Woo! Lasciate cuocere il riso secondo i tempi di cottura, l'acqua naturalmente dovrà assorbirsi tutte. Nel mentre, in una scodella mettete un cucchiaino raso di curry, delle foglie di timo, una spolveratina d'origano, un pizzico di sale, un po' d'olio extravergine d'oliva, un cucchiaino scherzo di succo di limone e con una forchetta sbattete il tutto fino a farlo diventare una cremina lievemente densa. Potete anche aggiungere un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Aggiungete a questo punto l'asparagina cotta al vapore, tagliata a pezzetti di 2-3 cm circa. Aggiungete olive nere snocciolate, tagliate a rondelli o a metà, e rigirate tutto e lasciate marinare. Quando il riso è cotto, aggiungete un po' d'olio, distribuitelo in delle ciotoline e aggiungete qualche cucchiaiata della marinatura. Il nostro pasto è composto anche da fagioli bianchi lessati e conditi con olio, timo, menta, pepe, succo di limone e semi tritati. Ricordo a tutti e a tutte che i fagioli in questione sono quelli di Spagna. Olè! Poi abbiamo degli ortaggi al vapore condite con la maionese di riso. E quindi ora diamo la ricettina per fare la nostra maionese di riso. È impegnativa, eh? Preparatevi. Ingredienti: 200 ml di acqua, 2 cucchiai di farina di riso, 5 cucchiai di olio di girasole bio, un cucchiaio di senape, un cucchiaio e mezzo di limone, un pizzico di sale, un pizzico di curcuma e pepe e 3 cucchiaini di amido di mais. Scusa, ma il sale è quello dell'Himalaya? Va bene anche quello del hop. Preparazione: scaldare a fuoco basso l'acqua in cui abbiamo sciolto la farina di riso e ottenere una crema densa. Successivamente frullate per qualche minuto la crema di riso con l'olio, il sale, le spezie, il limone e il cucchiaio di senape. Otterrete una cremina spumosa e poco densa. A questo punto rimettete sul fuoco il composto a cui si aggiungono i 3 cucchiaini di... De che? I 3 cucchiaini di amido di mais, rimescolando energicamente per evitare la formazione di grumi tanto cari a Camilla. Oh Gesù mio! Come declama il poeta, sempre caro mi fu questo grumo molle. E cuoce naturalmente per qualche minuto. Frullate nuovamente la maionese e versatela in un contenitore. Raffreddandosi si compatta sempre di più. Io la metterei in frigo. Anche quella va bene. Naturalmente, per chi possiede quei marchingegni infernali che frullano, tritano, sminuzzano e cuociono, il risultato sarà tutto più semplificato e garantito. Ma lo sai come fa la casalinga bighellona a far la maionese? La compra. O la fanno i frullatori, con il latte di soia e l'olio. È grassa però. Chiudiamola qui, perché io... Grano vegano. Sostiene Vallauri. Io sostengo ormai da qualche anno un animalismo anche umanista. Consiste nel proteggere l'uomo da questo scempio che sono gli allevamenti intensivi e i mattatoi. La mia parola d'ordine è pietà per il boia. Non solo è abbastanza orribile quello che fa chiunque lavori negli allevamenti e nei mattatoi, ma ci sono anche dei poveri disgraziati particolarmente sfavoriti dalla sorte, e che sono per esempio gli operai messicani nei mattatoi statunitensi, e in genere i sottopagati, i quali indossando stivali per difendersi dalla poltiglia di sangue e di feci liquide, devono officiare questo rito. A volte sono mantenuti apposta senza documenti, sono dei messicani che hanno passato il filo di ferro, perché così senza documenti sono più facilmente ricattabili in caso di organizzazione sindacale. Comunque, per tutti quelli che lavorano nel mattatoio, io proporrei una misura elementare di giustizia distributiva, cioè non è giusto che il mondo si divida in nonnetti felici da mulino bianco che mangiano la bistecca con i nipotini e in boia di professione, per cui tengo nel cassetto una proposta di legge che non verrà mai approvata dal Parlamento e che consiste nel proporre per tutti quelli che mangiano carne un servizio carnefice obbligatorio di un paio di settimane in un mattatoio. E con l'animalismo non ci si annoia mai. Infatti stanno accadendo molte cose di cui vorremmo informarvi con una breve carrellata di news. Il re di Spagna è stato fotografato a caccia di elefanti, gettando un'ombra fosca e lugubre sul suo paese, proprio mentre in Catalogna è stata recentemente vietata la corrida. Stanno girando su internet le orrende foto di re Juan Carlos con il fucile in mano, davanti a poveri elefanti accasciati e magnifici bufali senza vita. Uno spettacolo che troviamo inqualificabile. Chiediamo al nostro compagno di viaggio, Lorenzo Guadagnucci, giornalista e attivista per i diritti di tutti i viventi, un punto di vista su questa triste faccenda. Le immagini di Juan Carlos sono quasi un manifesto ideologico, un condensato di machismo, di neocolonialismo, di disprezzo per la vita altrui. Il manifesto di un monarca che con la società contemporanea sembra non avere più niente a che vedere. La Italian Horse Protection di Montaione, a cui siamo molto affezionati dopo la nostra visita andata in onda qualche domenica fa, ci ha fatto sapere che nell'ippica inglese ben 41 cavalli hanno perso la vita dall'inizio di quest'anno in varie competizioni, 23 nel solo mese di marzo. Gli ultimi 2 cavalli sono morti sabato 14 aprile ad Aintree, vicino a Liverpool, dove si svolge il Grand National, una delle più famose gare di steeplechase, disciplina che si corre anche in Italia. I cavalli sono costretti a galoppare per per circa 7 km, in un percorso disseminato di ostacoli da saltare. Ostacoli particolarmente pericolosi, sia perché sono costituiti tradizionalmente da siepi e muri, e quindi i cavalli non possono vedere oltre, sia perché spesso sono seguiti da fossati. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet. Ed eccoci alle belle notizie. A Firenze apre un ambulatorio pediatrico dedicato alle famiglie vegetariane e vegane. Mai più paura di morire per carenza di vitamina B12, mai più paura di allevare figli rachitici per una scelta animalista e cruelty free. È attivato a Firenze un ambulatorio pediatrico per le famiglie vegetariane e vegane. L'ambulatorio è presso il centro medico Medisalus, in via l'Europa 154, interno 12, via Finlandia 16, zona Firenze Sud. Per prenotazioni e informazioni il telefono è 055 0129 292. Altre informazioni sul sito www.medisalus.it. Riceve il professor Leonardo Pinelli, che è stato nostro ospite nella prima puntata. C'è poi una piccola rassegna stampa di articoli usciti su giornali e periodici nell'ultimo periodo. Oltre ovviamente allo speciale dedicato da Terra Nuova al mondo vegan, vi segnaliamo un articolo su Repubblica, né carne né pesce, la primavera della cucina vegana con ricette, ingredienti per una cucina cruelty free, un articolo sul Corriere della Sera, a dire vero un pochino discutibile, dal titolo Il nuovo integralismo vegetariano, e un servizio del mensile Terre di Mezzo dal titolo L'orrore è servito, nel quale una giornalista ha accompagnato gli attivisti di Nemesi Animale nei blitz che hanno compiuto in alcuni allevamenti lombardi. E nel nostro blog troverete due video investigazioni riguardanti una il produttore bruzzese e una allevamenti di produzione di uova anche biologici in Emilia-Romagna. La visione riteniamo che sia indispensabile per capire a cosa ci stiamo riferendo quando parliamo della quotidiana sofferenza di questi animali. E siamo in chiusura. Fotografie, contenuti di questa e di tutte le altre trasmissioni li troverete nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Scriveteci a restiamoanimali@controradio.it. A domenica prossima e mi raccomando, restate animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali.